si può fare. Cronache da un paese migliore. Si può fare. Di Alessio Maurizi. Buongiorno, buona domenica cari ascoltatori, ben ritrovati all'appuntamento con l'altra cronaca su Radio 24. Se siete stufi di sentir parlare di crisi economica e di casta, allora seguiteci, vi racconteremo altre storie. Cominciamo subito con qualche notizia per scaldare così un po' l'atmosfera. Si può fare la salute a buon mercato, potremmo dire, perché il rapporto con gli animali non costa nulla. E allora la pet therapy allunga la vita, è un risultato raggiunto dal Comitato Scientifico della Comunità della Longevità, che è un network, tra l'altro, sappiate, internazionale, di cui fanno parte le province sarde di Cagliari e dell'Ogliastra, ma anche alcune regioni coreane e quella giapponese di Okinawa. È emerso in un recente convegno che la pet therapy, cioè l'impiego degli animali nella cura di alcune patologie, insomma, può avere sui pazienti anziani affetti da diverse patologie effetti molto positivi, tali da allungare la vita. E c'è un'altra notizia che riguarda sempre i nostri amici animali, in questo caso i cani. Sentite qua, è una sperimentazione ma potrebbe diventare realtà. Un cane annusa tumori per diagnosticare il cancro alla prostata dalle urine. Anche questa è una sperimentazione che è stata annunciata al recente congresso nazionale degli urologi a Genova. Visto che i cani hanno 220 milioni di recettori olfattivi contro i nostri 5 milioni solamente, sono in grado di sentire molto più di quanto l'uomo possa immaginare. E allora che cosa hanno pensato questi ricercatori e veterinari? Di addestrare due esemplari di pastori tedeschi e pastore belga a insegnare loro a riconoscere l'urina dei pazienti affetti dal tumore alla prostata. Sembra una cosa da ridere, ma non c'è niente da ridere, è molto serio. Ebbene, questi cani, se ben addestrati, potranno imparare a riconoscere se c'è una malattia proprio dall'odore. E parleremo ancora di animali, di pet therapy, più avanti con un caso importante che si sta sperimentando all'ospedale Bambin Gesù di Roma. La prossima notizia è davvero incredibile. Non è mai troppo tardi, potrebbe essere il titolo. Addio al precariato, la professoressa diventa il ruolo a 61 anni. Accade ad una signora che si chiama, tra l'altro, predestinata Assunta Gloria, di 61 anni, che quest'anno è entrata in ruolo dopo che insegnava nella scuola dal 1975 come precaria. Insomma, un disoccupato in meno e davvero non è mai troppo tardi. Un'altra notizia che riguarda sempre il mondo delle donne, il mondo del lavoro, è questa. Rapporto ABI Censis presentato qualche giorno fa, l'occupazione femminile è in crescita nonostante la crisi economica, più 1,3% negli ultimi trimestri, invece gli uomini faticano a trovare lavoro. Qual è il motivo, secondo questa ricerca? Le capacità tutte femminili di adattarsi alle minori disponibilità di risorse, quindi a guadagnare anche qualche cosa in meno, e la tendenza soprattutto delle donne a lavorare nei settori che non sono colpiti dalla crisi. Quali? Per esempio l'assistenza alle persone, il turismo e tutta la filiera agroalimentare. Queste sono alcune delle notizie e noi aspettiamo le vostre segnalazioni sulla pagina Facebook Si può fare trattino Radio 24 del programma e anche alla segreteria telefonica, la nostra ricetta per salvare l'Italia in un minuto, 800 28 12 12. Per salvare l'Italia occorre sviluppare quello che da centinaia d'anni e migliaia d'anni abbiamo sempre portato avanti: agricoltura, turismo e artigianato. Artigianato di alta precisione, come già esiste. Dovremmo trasformare l'Italia nella California d'Europa, mettere a disposizione strutture per l'istruzione, quindi creare una serie di atenei e scuole dove tutti gli europei, e non solo gli europei, potrebbero venire a trascorrere periodi di svago, divertimento e studio. Avremmo sicuramente, visto che siamo la patria della cultura, avremmo sicuramente un grandissimo seguito e probabilmente avremmo trovato il modo di fare soldi senza inquinarsi. Lasciate anche voi un messaggio alla segreteria telefonica di Radio 24 al numero 800 28 12 12. La vostra ricetta per salvare l'Italia in un minuto. Gonna tell myself I might not get angry. Hey, yeah. B-I-O. Two Eddie girls calling them K-9. Hey, yeah. B-I-O. But they tell me, hey man, start up the party. B-I-O. You put a woman in front and a man behind. I have a woman shout out. Who let the dogs out? Who let the dogs out? Who let the dogs out? Who let the dogs out? Say, I told you. Eh già, perché la prima notizia, come anticipato, di oggi, il primo approfondimento, riguarda l'uso, diciamolo, degli animali e in particolare dei cani nella cura di alcune patologie. In questo caso parliamo di bambini e di malattie neurologiche. Chissà se solo i cani o anche altri animali sono utilizzati in questo progetto. Lo chiediamo subito al professore Enrico Castelli, che è primario del reparto di neuroriabilitazione dell'ospedale Bambin Gesù di Roma. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi. Solo i cani o anche altri animali? Poi ci spiegherà tutto il resto. Ma si tratta di un'attività complementare, non è una vera terapia. La terapia ovviamente è quella che facciamo nei nostri settori di riabilitazione, ma vogliamo sfruttare in questo caso proprio il rapporto del bambino con il cane per aumentare la motivazione del bambino durante il trattamento riabilitativo e gratificare il bambino stesso al termine del trattamento. Quindi sfruttiamo la relazione tra l'uomo e l'animale proprio per ottenere il massimo dal trattamento riabilitativo di questi piccoli pazienti che hanno subito una lesione neurologica. Ecco perché parliamo, il progetto si chiama Qua la Zampa, di pet coaching e non di pet therapy, cioè questa piccola distinzione, perché nella pet therapy gli animali sono così affiancano le persone, soprattutto dal punto di vista psicologico e del sostegno anche morale, se vogliamo dire. E invece in questo caso si cerca di coinvolgerli proprio anche nella vera e propria riabilitazione, e quindi anche un passettino in più. Di che tipo di malattie parliamo, professore? Parliamo di bambini con una lesione del sistema nervoso, quindi o cerebrale congenita acquisita o del midollo spinale, quindi comunque una lesione che poi provoca problemi di tipo motorio nel controllo della stazione retta, del cammino, del braccio, della gamba, eccetera. E per ogni bambino viene definito un percorso riabilitativo che coinvolge tutte le competenze che l'ospedale ha a disposizione, e in questo percorso identifichiamo alcuni esercizi, in particolare sul controllo dell'equilibrio, sulla riabilitazione dell'abbraccio, sul cammino, in cui inseriamo, in accordo con gli istruttori che seguono questi cani che sono stati selezionati e appositamente addestrati, identifichiamo appunto gli esercizi da far fare al bambino con il supporto dell'animale. Senta, ci racconti come nasce l'idea di fare questa sperimentazione, questo progetto, perché insomma ne abbiamo sentito parlare spesso, abbiamo letto anche prima una notizia, la pet therapy addirittura allungherebbe la vita e se ne parla sempre molto. Voi siete partiti da qualche evidenza, da qualche caso, da una vostra esperienza. Come nasce questo progetto, professore? Sì, certo, da diversi anni diciamo abbiamo avuto proposte di pet therapy che però non abbiamo concretizzato, perché i progetti che ci venivano proposti non avevano le basi di tipo scientifico o metodologico che invece sono per noi fondamentali. Abbiamo quindi pensato di coinvolgere questa associazione che si chiama ANUX, l'Associazione Nazionale per l'Utilizzo del Cane a Scopi Sociali, e con questa associazione e il coordinamento di una delle nostre psicologhe, dottoressa Mignani, abbiamo realizzato un progetto che per la prima volta, perché non risulta che ci siano altre esperienze analoghe, inseriscono proprio l'animale non tanto come supporto diciamo per ridurre lo stress legato all'ospedalizzazione o come piacere legato alla compagnia, all'accarezzare l'animale, ma proprio come uno strumento di tipo riabilitativo da impiegare all'interno della palestra, in questo caso in cui i bambini fanno il trattamento riabilitativo, per potenziarne gli effetti. Perché in riabilitazione è essenziale che ci sia un coinvolgimento e una motivazione del paziente se vogliamo ottenere i risultati, e con i bambini a maggior ragione è più difficile, perché vanno motivati non in modo diciamo razionale, ma con qualcosa che poi li gratifichi. E quindi l'animale si presta in modo straordinario a questo scopo, perché motiva molto ed è in grado poi di gratificare il bambino al termine dell'esercizio. E va bene, insomma, ma poi gli animali non è che si ammalano loro, no? Perché aiutano a guarire i bambini. Qualcuno si cura poi di come stanno i cani dopo che hanno fatto questo? Certo, no. Sì. C'è l'associazione, naturalmente, che certo, si occupa di questo. Ma sono tutti i cani poi selezionati. Lo scopo è addestrati per questo scopo. Mi dicevano gli addestratori che il cane viene selezionato dalla cucciolata già alla nascita e inizia l'addestramento quando ha 2 mesi. Per cui sono cani assolutamente controllati e addestrati per questo scopo. E va bene, allora insomma staremo a vedere e vi verremo a trovare qua alla Zampa, Ospedale Bambin Gesù, questo è il nome del progetto, più avanti quando avrete qualche risultato. Grazie al professor Enrico Castelli, buona giornata, grazie per essere stato con noi. Si può fare cronache da un paese migliore. Pure può fa il tacchino. Insomma, avete sentito la storia degli animali, dei cani impiegati a Roma in un progetto di pet therapy e continuiamo a parlare, come si sente anche dalla canzoncina di Cocchi e Renato, di animali. Animali che questa volta però se ne stanno tranquillamente nel loro habitat, in un posto meraviglioso, un caso anche questo di eccellenza. Tante buone notizie messe insieme, la passione per l'ambiente in un parco di cui parleremo è meraviglioso, ma anche una vena imprenditoriale di una gestione pubblico privato di che cosa? Dell'osservatorio ecofaunistico alpino che si trova ad Aprica all'interno del Parco delle Orobie Valtellinesi e noi abbiamo convocato Bernardo Pedroni, biologo naturalista, fondatore e presidente di questa meraviglia. Buongiorno. Buongiorno a lei e a voi tutti. Eccoci qua. Allora, prima di fare l'intervista lei mi diceva ci sono voluti anni per creare questo equilibrio. Parliamo di un parco, un osservatorio ecofaunistico dove ci sono moltissimi animali nati dall'orso allo stambecco lì, che vivono lì, non sono nelle gabbie anche se siamo in una zona recintata, ci sono molti turisti che vengono, bambini, scolaresche, e però il tutto si regge su un equilibrio molto, molto sottile, mi diceva, perché non è facile fare una cosa del genere, un caso d'eccellenza. Diciamo che noi ci abbiamo provato, era una sfida 15 anni fa, perché è 15 anni che è stato aperto al pubblico l'osservatorio ecofaunistico alpino e per ora siamo riusciti, speriamo di continuare a mantenere questi risultati di difficile realizzazione. Comunque l'osservatorio è l'area didattica proprio del Parco delle Orobie Valtellinesi, poche parole, dove si fa scuola nel bosco ma divertendosi, perché partiamo dal presupposto che per imparare e conoscere la natura il primo passo da fare è quello di appunto conoscerla, per amare e rispettare la natura il primo passo da fare è quello di conoscerla, e se la si conosce direttamente sul campo forse è più bello e divertente che studiare la natura solamente sui libri. Ecco, adesso lei fa il modesto perché non vuole magari così sottolineare anche la fatica che le è costata creare tutto questo. So fra l'altro che lei adesso è stato chiamato a fare consulenze in altri comuni, in altri posti che vogliono rivitalizzare le loro zone faunistiche, però di questo magari le chiederò più avanti. Intanto però ci dica che animali si possono vedere, che tipo di esperienza si fa venendo all'osservatorio ecofaunistico lì da voi. Ma partirei col dire che l'osservatorio, come è stato ideato, non è uno zoo e non sarà mai uno zoo, come diceva lei anche all'inizio, perché qua sono sempre gli animali che decidono di farsi vedere oppure no. L'itinerario, la gita, la visita guidata parte prendendo una funivia che raggiunge i 1700 metri di quota dai 1200 metri che è l'altezza dell'Aprica, e poi si scende a piedi fino in paese, proprio all'interno dell'osservatorio, lungo l'itinerario didattico naturalistico. Durante questa passeggiata vengono raccontate delle curiosità sugli animali, per dirne una fra tutte, per esempio che la marmotta con le zampe corte e robuste scava le gallerie sottoterra che portano alle tane, e sottoterra le marmotte sono ben organizzate, ci sono per esempio stanze di estivazione dove stanno d'estate, oppure camere di ibernazione dove vanno a dormire in letargo durante l'inverno, e addirittura dei cimiteri dove mettono le marmotte che muoiono, che non si risvegliano dal lungo letargo invernale. Lei diceva che gli animali sono loro che si fanno guardare? Chi sono gli animali più timidi, quelli che invece si fanno vedere di più? Ma non sono tantissime specie, proprio perché è stato ideato in una maniera un po' particolare, dove c'è dietro anche una filosofia. Molte, per esempio, sono specie libere che vanno e vengono dall'osservatorio, molte specie di volatili, per esempio le cince, oppure le ghiandaie, le nocciolaie. In montagna abbiamo soprattutto cincia mora, cincia dal ciuffo, cincia bisalpestre. Abbiamo proprio la radura delle cince, dove gli uccellini arrivano ormai sulle mani della gente, da vicino proprio, per farsi vedere e per la gioia anche dei fotografi. So oppure che avete anche esatto, gli animali che molto amati dai bambini, per esempio gli stambecchi, se non ho capito male. Quelli sono gli ungulati, oltre appunto cince, scoiattoli e altre specie minori, possiamo parlare degli ungulati e dire che abbiamo proprio nell'area, vivono e si riproducono con successo, proprio in condizioni naturali, camosci, stambecchi e anche caprioli. E poi avete anche l'orso, no? Beh, l'orso è un caso a parte, diciamo, una cosa su cui mi preferirei dire una cosa particolare, nel senso che è un orso, sono pochi anni che abbiamo l'area faunistica dell'orso bruno, ovviamente è un'area chiusa, è un molto grande, l'orso ha a disposizione un bosco intero con un bel laghetto dove spesso fa il bagno, è un orso di 23 anni, un bellissimo esemplare di maschio adulto di orso bruno delle Alpi, alto 2,5 metri quando si alza in piedi e pesa 250 kg. È vissuto per 16 anni in un'area faunistica molto piccola e quindi sta passando l'ultima parte della sua vita, diciamo, in un'area molto bella. Potrà vivere fino oltre i 30 anni, a volte anche 40. Pensi che la mamma di quest'orso ha 48 anni e è ancora viva. Speriamo che anche lui viva così a lungo. Senta, naturalmente per chi vuole venirvi a trovare basta andare a cercare anche su internet tutti i vostri accessi e insomma la pagina che state allestendo anche relativamente internet all'Osservatorio Ecofaunistico Alpino. Agli uffici turistici della IAT di Aprica, certo, col telefono 0342 746 113, perché si fanno le visite guidate tutto l'anno, sì, però sempre su prenotazione. Su prenotazione, ovviamente, certo, non è una cosa che c'è ghiaccio quindi, o neve, quindi non è una cosa che si improvvisa. Tra l'altro so che lei fa il modesto, però non ne vuole parlare, ma ci sono dei progetti in cantiere per esportare questo modello, perché lei gestisce come privato questo parco che però è pubblico del comune di Aprica, quindi c'è anche una, da questo punto di vista, un'eccellenza imprenditoriale. Lei non vuole svelare, però si sta allargando il suo modello. Ma sì, più che allargando, diciamo che abbiamo il nostro bigliettino da visita è proprio l'osservatorio, che è questa struttura particolare dove, oltre a essere un centro ricreativo, didattico, naturalistico, come hai capito è un centro di ripopolamento, perché gli animali che nascono, gli ungulati, vengono poi liberati in natura. Poi ci sono anche molte ricerche scientifiche come tesi di laurea, dottorati di ricerca, ed è anche un posto meraviglioso per i fotografi naturalisti. E diciamo che altri progetti che stiamo facendo e abbiamo già fatto sono alcuni per alcuni enti pubblici in provincia di Pordenone, poi adesso stiamo preparando, siamo proprio agli inizi, un bellissimo centro di quasi 100 ettari in Toscana. E poi anche stiamo un po' andando anche all'estero, forse faremo anche qualcosa a Lugano, ma è un po' tutto piccole anche opportunità di lavoro, speriamo, anche per dei giovani interessati a questo settore che non è grandissimo purtroppo in Italia, ma qualcosa si fa, come sentite si sta facendo e si farà ancora di più. Io ringrazio Bernardo Pedroni, biologo naturalista, direttore dell'Osservatorio Ecofaunistico Alpino di Aprica. Grazie per essere stato con noi. Grazie a tutti voi, arrivederci. E verremo presto naturalmente a visitare l'osservatorio, perché insomma, ci è venuta voglia naturalmente sentendo le meraviglie che si possono vedere facendo questa visita. Adesso invece è arrivato il momento, prima della pausa, della nostra notizia si può fare dal mondo più bella della settimana. And the winner is... Il premio questa settimana va agli studenti del Politecnico di Mesa, in Arizona, che hanno trasformato il più odioso degli inconvenienti nella più scintillante delle opportunità. Il parco del campus universitario era bersagliato dall'impunita incontinenza di 200 cani che ogni mattina lo trasformavano in un pericoloso campo minato per i volenterosi del jogging. In Arizona, il sole del deserto e il vento della frontiera hanno temprato uomini concreti e dal carattere pragmatico. Nessuno si è mai bevuto la storia che pestarle portasse fortuna. Ecco allora la trovata geniale. Perché non trasformare la cacca in energia? Se lo è chiesto uno studente di ingegneria,

odiare, poi amare, si può fare, si può fare, puoi prendere o lasciare, puoi volere, puoi lottare, fermarti e rinunciare, si può fare, si può fare, puoi prendere o lasciare, si può crescere, cambiare, continuare a navigare. E per la nostra rubrica Come è andata a finire, il titolo che gli abbiamo dato è La famiglia senza macchina alla prova del figlio. L'avevamo conosciuto il nostro prossimo ospite quando, prima ancora di avere un figlio, lui e la moglie avevano deciso di fare una vita senza macchina, gli smacchinati felici si definivano, e vivevano in bicicletta, con i mezzi pubblici, col treno, con tutto quello che volete. Però poi ci disse il nostro caro amico ospite: beh, insomma, adesso avremo un figlio, chissà se mia moglie sarà ancora dell'avviso di continuare su questa strada, una vita così sostenibile di smacchinati, però con qualche difficoltà, magari logistica in più. E allora lo ritroviamo, Valerio Cicchiello, avvocato di Bergamo, nonché presidente del Circolo per la decrescita felice di questa città. Buongiorno. Buongiorno a voi. Buongiorno. La domanda è: come è andata a finire su Spans? Siamo ancora senza macchina e ci troviamo felicemente senza la macchina. Oh, clamoroso. Quindi avete mantenuto fede, diciamo, al vostro impegno e alla vostra scelta di fondo, anche dopo aver avuto un figlio, 2 mesi fa, tra l'altro, 1 mese e mezzo fa. Certo, sì, quando ci eravamo sentiti avevamo appunto posto un punto di domanda a noi stessi, nel senso, non davamo per scontato che questa fosse una scelta irreversibile. Ad oggi, insomma, il bimbo ha 40 giorni. Come si chiama il bimbo? Si chiama Pablo Ernesto. Pablo Ernesto? Sì. Insomma, non è ancora salito su una macchina, o sì? No, è anche capitato che sia salito su un'auto perché non... Un taxi, magari. Non è una scelta, diciamo... Così radicale, radicale a prioristica, quindi all'occorrenza... Si sale anche sul lato, insomma. Però come vi siete organizzati? Per esempio all'uscita dall'ospedale normalmente arriva il papà con la macchina e il passeggino e si va a casa. Lei è arrivato, credo, col passeggino, però come? Allora, all'uscita ospedale, per, diciamo, piacere di condivisione con la famiglia, siamo stati ospitati dai nostri genitori, insomma, con le loro macchine. Siamo tornati, cioè, con le loro auto. Però ci è capitato poi magari di andare all'ospedale passeggiando, in autobus, insomma. Vabbè, insomma, in quell'occasione avete scroccato un passaggio, ci può stare. Ci vuole così anche ricordare un po' i motivi, come la vostra famiglia è arrivata a questa decisione di smacchinati felici. Lei così si era definito l'altra volta. Sì. Ci siamo arrivati per gradi, di ritorno da soggiorno all'estero, sia io che da parte di mia moglie, siamo arrivati in Italia, eravamo senza auto perché nel frattempo me ne ero liberato, essendo stato un paio d'anni all'estero, abbiamo detto proviamo a vedere come si fa senza anche qui in Italia e ci siamo messi, insomma, all'opera. Cammin facendo, il bello è stato che, insomma, quello che pensavamo sarebbe stato solo e soltanto sacrifici, in realtà si è rivelato una liberazione, perché abbiamo la fortuna di vivere in città, ci piace la mobilità leggera e quindi gli spostamenti li viviamo in leggerezza e ci accorgiamo che dà soddisfazione a più punti di vista, insomma. Cioè, insomma, lo stress da coda, naturalmente voi non sapete che cosa sia, e questa è una gran bella cosa. Sono più le persone che la guardano con sospetto o con come dire, con aria poco convinta rispetto a questa vostra decisione, oppure intorno a voi trovate comprensione e anche condivisione di questa vostra scelta di vivere senza l'automobile? Ma direi più, diciamo, l'atteggiamento è quello della curiosità e della, insomma, approfondimento. All'aumentare della relazione, della qualità della relazione, c'è anche modo un po' di intrattenersi sugli aspetti più specifici e sì, tendenzialmente magari chi non ti conosce ti guarda un po' da lontano come una persona un po' fuori dal coro, strana, che invece le persone con cui si hanno relazioni hanno la possibilità di apprezzare, comunque ci si confronta sul tema in modo semplice e spontaneo. L'ultima cosa che le voglio chiedere, avvocato, perché lei è anche avvocato, ha fatto un conto di quanto questa scelta può costare di più in termini di utilizzo del taxi, del treno, di altri mezzi, oppure addirittura di meno, perché non c'è il costo d'acquisto dell'auto, la bicicletta costa meno e non c'è l'assicurazione, non c'è il bollo, non c'è la benzina e non ci sono tante altre cose. Sì, allora, conti dettagliati non ne ho fatti, però spannometrici sì, e le posso dire che il bilancio è decisamente a favore, nel senso che oltre appunto ai immaginabili risparmi di manutenzione dell'auto, muoversi con il mezzo pubblico ha tutta una serie di vantaggi anche economici. Quindi insomma non c'è da stupirsi se in questi tempi di crisi, dove le risorse sono un po' meno che in passato a disposizione delle famiglie, il mercato dell'auto sia in calo, in particolare in Italia. Insomma, lei di questo non si stupisce, no? No, penso che rientri in una naturale evoluzione di un mercato che è abbondantemente saturo, e forse questa è un po' l'occasione perché le persone che vogliono in massima libertà sperimentino forme leggere di spostamento che facciano bene all'ambiente, alle proprie tasche, a se stessi, insomma, con spirito anche magari sperimentatore. Mi verrebbe da dire, provate un mesetto e rendetevi conto dal vivo che cosa significa, insomma, massima spontaneità. E va bene, grazie allora al nostro avvocato di Bergamo, Valerio Cicchiello, presidente del Circolo di Crescita Felice di questa città, lui e la sua famiglia di Smacchinati Felici. Grazie per essere stato con noi. Grazie a voi. Siamo arrivati in chiusura anche di questa puntata e io voglio ringraziare Franco Piantanida, in redazione Andrea Piana che ha scritto con me il programma, Fabio Cantadori per essere stato in regia. Ci risentiamo sabato prossimo, vi lasciamo alla nostra segreteria telefonica. In relazione ai provvedimenti per tentare di uscire dalla situazione economica in cui si trova l'Italia, le mie proposte sono via l'8 per mille. Il 5 per mille invece deve essere destinato esclusivamente alla ricerca scientifica. Niente soldi pubblici alla politica, ai giornali, allo spettacolo, al calcio. Nessuna esenzione IMU se non per luoghi destinati esclusivamente al culto. Ritengo importante in questo momento storico avere il coraggio di tassare addirittura anche la prostituzione. È un fenomeno che non è mai stato debellato. Forse è giusto o non è giusto, questo è un altro paio di maglie, ma in un momento di emergenza anche le prostitute devono pagare le tasse. Lasciate anche voi un messaggio alla segreteria telefonica di Radio 24 al numero 828 12 12. La vostra ricetta per salvare l'Italia in un minuto. Sì!